24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8.20 di questo lunedì 15 giugno inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Io questa mattina vorrei cominciare da una notizia di cronaca che però fa riflettere sulla, diciamo, superficialità con la quale certe situazioni vengono poi trattate. La notizia di cronaca è quella dell'ex assessore all'ambiente a Milano, Paolo Massari, un giornalista, un collega, che è stato arrestato per violenza sessuale. Vedremo poi i fatti, che cosa ci diranno. Ma perché parto da questo? Perché Massari già qualche anno fa aveva avuto delle segnalazioni di un comportamento inappropriato ed erano venute da un esponente dell'ambasciata norvegese a Milano e da un'impiegata del comune di Milano, perché all'epoca lui era appunto assessore. Si dimise dicendo: non sono un molestatore. Ma quello che mi domando è: davvero a nessuno importa quando ci sono segnalazioni di questo tipo? E davvero lasciamo che tutto, come dire, passi sotto silenzio fino all'evento successivo? Perché purtroppo spesso un evento successivo c'è, e volevo segnalarlo perché tante volte le donne che denunciano di essere state molestate non vengono prese sul serio. Evidentemente serve sempre un altro evento perché queste denunce vengano, come dire, considerate per quello che sono. Basta, era bene, la mia riflessione di questa mattina, un po' amara, La riflessione amara di questa mattina, insomma, oggi non ci porti i giornali stranieri, Maria, però insomma le notizie dalla Francia ce le abbiamo, sono quelle sulla scuola, che il 22 giugno si riapre. Sì, ma è anche la rubrica Tutto il mondo e paese, perché pure Macron ieri ha fatto il suo discorso alla nazione, la quarta volta che interviene. Perché l'ha fatto? Perché come Conte ha bisogno di ristabilire l'autorità presidenziale. Sapete che nelle settimane scorse il suo partito ha subito delle scissioni, qualcuno pensa che siano scissioni manovrate addirittura da lui. Ci sono voci secondo le quali addirittura potrebbe anticipare le elezioni presidenziali, approfittando del fatto che non ci sono dei competitor in questo momento. Ma esattamente come con gli stati generali di Conte, anche ieri Macron ha fatto degli annunci, ma non ci sono, come dire, ancora dei fatti concreti. E che le scuole riaprano il 22 giugno per chiudere il 4 luglio, insomma, francamente non meritava tutto questo cinema presidenziale. Anna Maria Furlan, segretaria della CISL, buongiorno, benvenuta, eccoci. Buongiorno. Eccoci qua, bentornata ai nostri microfoni. Dunque, oggi andate voi, no? Oggi, dopo Colao, ci siete voi. Esattamente, iniziamo stamattina dopo la redazione del dottor Colao. E nei prossimi giorni, anche questo pomeriggio, saranno sentite tutte le parti sociali. È un'occasione da non perdere. Io mi auguro che davvero emergano le questioni vere da affrontare nel nostro paese. Maria. Lei dice giustamente: è un'occasione da non perdere. Le elenco alcuni dei punti essenziali che secondo il Presidente del Consiglio dovranno fornire il rilancio dell'economia italiana: l'innovazione, il rafforzamento delle imprese, perché sappiamo che spesso sono piccole e sottocapitalizzate, il sostegno all'export, l'attrazione degli investimenti, il sostegno a quelle che vengono definite le transizioni occupazionali, cioè quando uno perde un lavoro e non ne ritrova un altro, la tutela del reddito dei lavoratori e la qualità del lavoro. Di tutti questi elementi che dovrebbero contribuire al rilancio dell'impresa italiana, qual è quello che le sembra più urgente da affrontare? Ma guardi, sono tutti temi urgenti. Noi abbiamo bisogno di un piano complessivo che parte da un presupposto che è un presupposto positivo. Attraverso l'Europa avremo davvero tante risorse da poter investire nel paese, non va sprecato nemmeno un euro, quindi bisogna darsi obiettivi chiari, precisi e capire ognuno di noi che responsabilità deve anche assumersi per raggiungerli. Una volta tutto questo si chiamava concertazione e credo che oggi sia assolutamente attuale rispolverare la concertazione per far ripartire il paese. Io credo che l'ammodernamento delle nostre reti infrastrutturali, quelle materiali e quelle immateriali, sia fondamentale per rilanciare il paese. Come credo che il tema della conoscenza sia un tema oggi davvero vitale per il futuro dell'economia del paese, ma anche delle persone. Quindi garantire il diritto alla conoscenza. Noi avremo bisogno anche di atti riformatori per come ridistribuire le risorse nel paese e quindi una vera riforma fiscale, per come ammodernare la pubblica amministrazione. Questo è un tema assolutamente importante che va affrontato. Ma oltre a tutto questo abbiamo il tema della nostra fragilità, che abbiamo drammaticamente scoperto durante tutto il percorso, purtroppo ancora in parte attuale, della pandemia, che è riformare il sistema sanitario italiano attraverso tante risorse che per troppo servono i soldi del MES? Mi scusi Furlan, servono i soldi? Servono i soldi del MES? Certo che servono i soldi del MES. Io spero che si concludano onestamente queste diatribe un po' insensate. Noi abbiamo bisogno realizzare un sistema sanitario che non sia solo ospedale, che sia anche territorio, e avere anche risorse per la ricerca. E quindi Furlan, tutte le risorse disponibili, comprese quelle del MES. Ascolti, una delle osservazioni viene fatta a questo, ne abbiamo parlato anche con l'ex ministro Tria venerdì a questo appuntamento degli Stati Generali, è la seguente: noi sappiamo perfettamente cosa fare, nel senso che sono 30 anni che ci diciamo le stesse cose: dobbiamo sburocratizzare, fare la riforma della pubblica amministrazione, la giustizia civile, la giustizia penale da rivedere, la riforma fiscale. Da quanto ne parliamo, Furlan, di tutto questo? Anche rimanere a temi di stretta attinenza sindacale, no? La riqualificazione dei lavoratori, le politiche attive, servono gli, servono gli stati generali. Bisogna fare. Il problema è che finora nessuno l'ha fatto, o se è stato affrontato qualche tema è stato affrontato in modo assolutamente parziale. Oggi ci sono due condizioni che credo siano non di poco conto: un paese economicamente in ginocchio, perché siamo davvero in una condizione come se avessimo affrontato una guerra, e risorse europee finalmente per crescita e sviluppo, che guai a noi se non sapremo utilizzarli. Quindi oggi è il momento della responsabilità, delle idee, delle proposte e della responsabilità. Volevo chiederle, Furlan, lei ha giustamente sottolineato l'importanza della formazione, perché se le nuove generazioni non saranno in grado di essere formate per il lavoro nuovo che le attende, resteranno indietro rispetto alle altre, anche europee. Ora, l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi sul Messaggero ha proposto di permettere agli insegnanti un volontario aumento delle ore di insegnamento a fronte di un adeguamento della busta paga. Le sembra una buona idea? Guardi, tutte le idee, per carità, si possono approfondire, se poi vengono da Romano Prodi qualche motivo in più. Io dico una cosa molto molto semplice: La scuola italiana ha attualmente circa 200.000 precari. Ecco, un tema da risolvere è esattamente questo. Come pensiamo di poter assicurare il diritto della conoscenza con rapporti di precariato che sono assolutamente insopportabili dal punto di vista numerico nella nostra scuola, come nella pubblica amministrazione e come in modo particolare nella ricerca. Il tema dell'orario di lavoro, dell'organizzazione del lavoro, lasciamolo alla contrattazione, lasciamolo all'autonomia scolastica e alla contrattazione. Noi iniziamo a ragionare sul fatto che abbiamo scuole fatiscenti, sul fatto che nel sud del nostro paese non esiste il tempo pieno, sul fatto che dobbiamo anche qua digitalizzare la nostra scuola. Quando abbiamo affrontato il periodo del lockdown con la didattica a distanza, qualcuno ha scoperto una cosa che per noi era arcinota: metà Italia era esclusa perché non arriva la banda larga in metà del nostro paese. Io credo che la scuola abbia bisogno di meno strumentalità nel dibattito pubblico e abbia bisogno di risorse, di investimenti e soprattutto di insegnanti che oggi mancano nella scuola italiana. Ascolti, Furlan, si è acceso un dibattito negli ultimi giorni sull'ipotesi che ad agosto le fabbriche che hanno ordini, proprio perché siamo in una condizione di disastro economico, come lei stessa ha detto, rimangano aperte. Che ne pensa il sindacato? Ma guardi, non vedo niente di strano in tutto questo. Tante molte attività regolarmente d'agosto, non soltanto in questo momento di situazione particolare del paese, continuano a lavorare, quindi nulla di nuovo. Io credo che comunque queste scelte debbano essere affidate alla contrattazione, in modo particolare alla contrattazione aziendale. Ogni azienda ha proprie peculiarità e proprie esigenze, quindi non credo servano regole nazionali che decidano che. Credo che attraverso la contrattazione si risolvano tutti i problemi e si colgano anche tutte le opportunità. Guardi, gli italiani e le italiane non vedevano l'ora di tornare a lavorare, perché questo significa non solo il senso del lavoro nella propria vita, dare prospettive e futuro alla propria famiglia, significa partecipare all'economia della propria comunità, della propria società. Quindi credo che se affidiamo tutto questo alla contrattazione, il risultato non potrà che essere migliore rispetto a direttive nazionali, mi permetto di dire molto improbabili. Furlan, sarebbe utile allungare il periodo di vieto di licenziamento oltre il 17 agosto? Sarebbe assolutamente utile. Noi avremo ancora sofferenza da questo punto di vista. Avremo bisogno di sostegno alle imprese, di ammortizzatori sociali e secondo me va data anche la tranquillità rispetto al blocco dei licenziamenti. Se tutto questo, se accanto a questo riparte finalmente il paese, io credo che potremmo davvero sperare in mesi futuri non drammatici per l'economia e per le persone nel nostro paese. Persone tra le quali ce ne sono alcune centinaia di migliaia che ancora attendono la cassa integrazione. Là il processo è stato incredibilmente lento, accelerato nell'ultima settimana, apprendiamo, però incredibilmente lento, no? Certamente, e credo che sia sotto gli occhi di tutti che abbiamo bisogno di rivedere gli ammortizzatori sociali nel nostro paese. Guardi, con i decreti durante questa primavera in qualche modo si è dato una copertura a tutti quelli che ne avevano bisogno, non solo gli ammortizzatori sociali, tra virgolette, classici, ma si sono anche trovati strumenti per coprire l'area del bisogno. Mi scusi Furlan, ma lei pensa che l'INPS abbia fatto tutto il possibile, tutto quel che era nelle sue capacità, o sono stati commessi degli errori? Io penso che assolutamente l'INPS si sia trovata ad affrontare in 3 giorni le domande di cassa integrazione che mediamente si hanno in 5 anni. Penso che abbia bisogno di un sistema informatico sicuramente rafforzato, ma penso anche che troppe tipologie di ammortizzatori sociali con processi burocratici lenti e ripetitivi, pensa alla cassa in deroga, decidono le regioni, la trasmettono all'INPS, l'INPS la rinvia alle regioni, dalle regioni di nuovo all'INPS. Ecco, con questi processi è evidente che si creano ritardi assolutamente insopportabili per le persone, quindi rafforzare l'INPS, tante risorse in questi anni sono state tagliate all'INPS, nessuno lo ricorda, ma io invece lo ricordo bene, e riformare gli ammortizzatori sociali perché siano più esigibili subito, quando ce n'è immediatamente bisogno, credo sia uno dei punti da analizzare anche in queste giornate. Maria? Nel 2021, alla fine del 2021, scadrà la sperimentazione di quota 100 e c'è il rischio di creare un nuovo scalone per chi punta alla pensione anticipata. Ci sono tanti che si stanno facendo dei conti, se andare in pensione appunto nel 2021 e chi invece ci andrà nel 2022. Qual è la vostra proposta su questo punto? Ma quella che abbiamo fatto diverse volte anche a questo governo, e cioè c'è bisogno di rivedere complessivamente la legge pensionistica nel nostro paese, creando e assicurando una flessibilità di uscita per tutti i lavoratori e per tutte le lavoratrici, che tenga anche conto del lavoro che si fa, del proprio percorso di vita, dello stato di salute familiare di ogni singolo lavoratore e di ogni singola lavoratrice. La gravosità dei diversi lavori incide moltissimo anche sulle aspettative di vita. Quindi io credo che anche qua, uscendo un attimo dalle tante polemiche che caratterizzano sempre il discorso pensionistico, sia l'ora di fare invece un lavoro molto serio, a partire dal creare una condizione di garanzia previdenziale per i nostri giovani. Per anni e anni e anni precari, alla fine sono candidati a essere sicuramente anziani poveri. Credo che sia doveroso creare una condizione anche di futuro pensionistico per loro. Grazie Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL, per essere stata con noi. Le auguro buona giornata e buona giornata, buon intervento agli stati generali. Ci fermiamo. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo con Graziano Del Rio. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Buongiorno a Graziano Del Rio, capogruppo alla Camera del Partito Democratico. Bentornato Del Rio, eccoci. Grazie, eccoci. Buongiorno a voi, buongiorno. Maria, inizi tu, vai. Buongiorno, capogruppo del PD alla Camera, è stato ministro delle infrastrutture, conosce molto bene le dinamiche del governo. Allora, le chiedo, si è fatto un gran parlare per chi è appassionato ai sondaggi, non tutti lo siamo, ma insomma si è fatto un gran parlare di questo sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera. Secondo Pagnoncelli, al 30% potrebbe aspirare un Movimento 5 Stelle che avesse Conte come candidato premier. Poi, sempre da Palazzo Chigi, fanno filtrare altri sondaggi per cui lo stesso Conte, se mai volesse fare un partito, potrebbe arrivare al 14%. Le chiedo, un'alleanza tra Partito Democratico e 5 Stelle, che è poi il percorso che Beppe Grillo ha in testa da tanto, e si è visto anche ieri nella replica a Di Battista, un'alleanza insomma PD-5 Stelle, potrebbe far vincere il centrosinistra quando e semmai si tornerà a votare per le politiche, oppure, come dicono dal centrodestra, renderebbe il PD gregario dei 5 Stelle? Ma guardi, io penso che l'alleanza sia necessaria per governare un paese, nessun partito è autosufficiente. Noi quest'estate, di fronte al disastro, l'estate scorsa, insomma, di fronte al disastro che si era preparato nel paese, con investimenti a zero, occupazione a zero e il PIL che non cresceva, quindi ancora prima della tragedia del Covid, avevamo detto che era necessario dotare il paese di progetti più seri che stimolassero di più l'economia. Quindi le alleanze sono necessarie per il bene dei cittadini, per il bene delle nostre comunità. E io non sono spaventato se, come è successo quest'estate, il Movimento 5 Stelle indica, essendo la forza parlamentare maggiore, ha indicato Conte come uno dei suoi, diciamo, quasi esponenti, ecco, mettiamola così, perché Conte è stato sempre molto vicino al Movimento 5 Stelle. Quindi non ci siamo spaventati, perché a noi interessa che si facciano le cose bene. Non siamo spaventati se i nostri alleati crescono. Il problema non è una competizione interna alle alleanze, il problema è una competizione a avere le migliori idee e a metterle in pratica nel miglior modo possibile, perché poi bisogna tradurre le idee in atti concreti. E lo sta facendo Conte, secondo lei? Beh, diciamo che la vicenda Covid ha determinato ovviamente il fatto che il governo si concentrasse su obiettivi molto più urgenti ed immediati, e per fortuna è successo questo, perché abbiamo avuto appunto nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, una tragedia senza precedenti, quindi era giusto così. Adesso c'è bisogno di una svolta, di un cambio di passo, di concretezza, perché l'economia ha risentito e quindi il lavoro e quindi la vita delle persone hanno risentito in maniera molto forte di questa orribile epidemia. Bisogna fare rapidamente, prendere rapidamente dei provvedimenti. I primi provvedimenti per sostenere la liquidità delle imprese e adesso questo decreto rilancio che mette altri 55 miliardi devono poter arrivare rapidamente, ripeto, al sostegno delle imprese e delle famiglie. Quindi abbiamo cominciato, credo, nella direzione giusta. Bisogna accelerare, perché purtroppo il tempo si fa breve, purtroppo dico. Bisogna fare molto bene, perché non basta fare presto, bisogna fare anche bene, perché in questa situazione così complicata il nostro paese ha bisogno davvero di riforme strutturali, di decisioni che siano rapide e atterrino rapidamente. C'è un problema di messa a terra di questi provvedimenti, Delrio. Sì. Cioè, lei è stato anche ministro, quindi lo sa perfettamente. L'impressione è che non so se per la fretta o simili, insomma, siano stati scritti un po', ecco, un po'. Sì, no, un il po' problema con è esattamente leggerezza. Questo. Io guardi, nel 2014, quando ero sottosegretario a Palazzo Chigi, l'obiettivo principale era ridurre il numero dei decreti attuativi, cioè quei decreti che consentono, lo dico per gli ascoltatori, alle leggi di diventare poi concrete. Molto spesso non vengono nemmeno emanati questi decreti attuativi, quindi la legge rimane scritta su delle tavole, non arriva mai con le sue conseguenze. Allora, in questo decreto rilancio ci sono più di 100 decreti attuativi, per dire, quindi bisogna stare molto attenti, perché non si può semplificare complicandosi la vita rimandando altre leggi. E questo è un esempio che lei ha fatto molto pertinente. Noi vogliamo essere appunto semplificare. Quindi è stato molto scritto male il decreto rilancio? Beh, no, è stato scritto male. Diciamo che c'è un'abitudine a essere, da parte degli uffici legislativi, legittima, dei ministeri, a fare le cose in una certa maniera. Bisogna rendersi conto che in questo momento bisogna stare dentro la legge, ma bisogna anche essere capaci di fare semplificazioni mai fatte prima. Quindi è colpa dei tecnici, mi scusi Delrio, giusto per andare un po' al cuore della cosa. No, non è una questione di colpe, guardi, è una questione che non si possono affrontare situazioni inusuali, e noi siamo nella più grande crisi dal dopoguerra in poi, sociale ed economica, mai vista prima, quindi è una situazione inusuale, inaspettata. Non si possono affrontare queste cose con i soliti approcci, ecco, questo mi pare il problema, ma è uno sforzo che dobbiamo fare tutti, i politici, indirizzando bene le loro energie e i tecnici traducendo queste idee in atti legislativi. È così, cioè, non dobbiamo disperdere le nostre energie. Le faccio un esempio: è inutile parlare della scuola parlando di edilizia scolastica quando nel 2014 c'erano 300 milioni a disposizione dei comuni, adesso ci sono 9 miliardi. Bisogna capire chi sta realizzando rapidamente e chi no, perché le stesse regole valgono per un comune come per un altro. Magari uno ha realizzato il 100% i fondi che gli sono stati forniti e un altro invece li ha realizzati al 30%. Bisogna andare a aiutare magari quel comune dandogli un dirigente e permettendogli di assumere un dirigente all'urbanistica, agli lavori pubblici. Non so se mi spiego. Chiaro. Bisogna usare un metodo molto di concretezza, il metodo dei sindaci. Io lo definisco, sì, perché avendo fatto il sindaco per 10 anni, i sindaci non possono lasciare lì i problemi quando i cittadini chiedono la risoluzione di un problema. La prima linea della Repubblica. Una pausa e poi ci ritroviamo. Mattino. Vai Maria, vai. Sì, vado con una cosa concreta. Lei prima giustamente diceva siamo di fronte a una situazione emergenziale mai vissuta prima e quindi bisogna trovare anche dei sistemi rapidi di attuazioni delle cose che si decidono al governo. Perfetto, il governo ha approvato il Family Act, che però, lo ricordiamo, è una delega, quindi serviranno anche i decreti legislativi per vedere le misure effettivamente approvate. Se io avessi una famiglia con figli piccoli, eccetera, le dico onestamente, Del Rio, non saprei da dove cominciare per orientarmi rispetto a tutti i vari bonus. Mi aiuta a capire questo Family Act come mette ordine e se finalmente cambierà qualcosa nel sostegno alle famiglie, perché come dire, negli ultimi 50 anni non è stato così per le famiglie italiane. Sì, ha ragione, questo è un esempio molto importante. Questa è una grande riforma che la ministra della famiglia, ma anche il Parlamento ha avviato, e deve arrivare rapidamente, perché noi abbiamo un problema anche proprio relativamente alla crescita del paese. Mancano i figli, siamo nel più grande inverno demografico della storia. Altri paesi come Francia e Germania sono passati da situazioni simili, hanno messo in campo provvedimenti concreti per le famiglie e il trend demografico si è invertito. Quindi è un'urgenza per questo paese, senza crescita demografica non ci sarà nemmeno lavoro e sviluppo per questo paese. Quindi dobbiamo essere rapidi. C'è un modo molto semplice: dare un assegno per ogni figlio che nasce. Questo decreto, adesso è stata approvata la delega, sarà approvata proprio oggi e domani in Parlamento l'assegno unico universale. C'è uno strumento semplice che va a sostituire, cioè a semplificare moltissimo tutto il sistema di detrazioni, bonus, detrazioni, vari voucher, eccetera, con un semplice assegno che di mese in mese viene versato per ogni figlio, fino a 200 euro per ogni figlio. Non è una cosa inventata, basta copiare dai nostri amici tedeschi e francesi che hanno già da tempo messo in piedi questo tipo di riforme. La famiglia è uno degli elementi di resistenza di questo paese, è stato l'elemento che anche in questa crisi, come sapete, ha tenuto in piedi il paese, quindi è un elemento che aiuta i giovani, che aiuta gli anziani, quindi abbiamo bisogno che la famiglia venga messa al centro. Allora, si può fare il decreto attuativo già da gennaio? Questo è il punto, questo è quello che noi chiediamo come Parlamento, come Partito Democratico, ma anche Italia Viva, anche gli altri partiti sono stati molto impegnati e insieme abbiamo lavorato, quindi vogliamo che il decreto attuativo sia da subito, in maniera che nel prossimo anno le famiglie, sì, comincino. Famiglie degli autonomi, per esempio, non hanno mai ricevuto un beneficio per i loro figli, le pare giusto? Quindi semplifichiamo e saniamo delle ingiustizie con questa misura e diventiamo un paese europeo finalmente. Del Rio, senta una cosa, ci faccia tornare per un attimo sulle questioni politiche, al di là delle questioni di tenuta del Movimento 5 Stelle, sulle quali ipotizzo che la sua risposta sarà sono fatti loro, nel senso che il Movimento 5 Stelle, però invece sono fatti nostri quello che pubblica oggi il quotidiano spagnolo ABC, il quale racconta di 3 milioni e mezzo di euro partiti dal regime chavista ed arrivati direttamente nelle tasche, a quanto pare, di Gian Roberto Casaleggio nel 2010, il che si salderebbe con alcune dichiarazioni tiepide che abbiamo visto nei mesi scorsi da parte dei 5 Stelle sul regime di Maduro. Come la leggete questa cosa? Ma guardi, non voglio commentare questioni in discrezioni giornalistiche di cui non abbiamo contezza della veridicità, quindi ripeto, cerchiamo di fare insieme il bene di questo paese, ogni partito ha le sue dinamiche, i suoi rapporti, le sue relazioni. Certamente questo governo è nato, e qui invece le do una risposta politica, è nato con una forte vocazione europeista, a differenza del precedente, che era quello tra i 5 Stelle e la Lega, e ha scelto l'Europa come orizzonte e destino. Quindi questo ha portato un grande beneficio all'Italia, perché i tassi di interesse sono immediatamente scesi sui nostri titoli di Stato, sui prestiti che riceviamo, e adesso riceviamo un mucchio di sostegno dall'Europa, perché siamo protagonisti in Europa, ma perché siamo convintamente europeisti. Sono contento che il mio partito abbia portato questo paese di nuovo nel solco europeista che l'ha sempre contraddistinto. Maria? Qualche settimana fa, ospite qui di 24 Mattino, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha detto che servirebbe un rimpasto di governo. Secondo lei serve e le piacerebbe tornare al governo Del Rio? Allora, se serve o no, questo lo decide il Presidente del Consiglio con il Presidente della Repubblica, cioè loro devono decidere se in alcuni settori si poteva fare meglio e c'è bisogno di ministri, diciamo, diversi da quelli che hanno. È un loro compito. Io ho servito questo paese per 5 anni, sono molto felice di averlo fatto, come ho fatto il sindaco. Sono esperienze che si aprono e si chiudono, è giusto mettere energie nuove e teste nuove. È chiaro che preferisco anche che non si butti via il lavoro che è stato fatto. Le ho fatto l'esempio dell'edilizia scolastica, perché è una cosa a cui tenevo molto quando arrivai a Palazzo Chigi. Le potrei fare l'esempio del piano per il dissesto idrogeologico, che pure non c'era quando arrivavamo a Palazzo Chigi, adesso c'è. Le potrei anche dire che abbiamo fatto un piano per infrastrutture e finanziato un piano per infrastrutture per oltre 140 miliardi. Ecco, mi piacerebbe che i nuovi ministri ripartissero da quello che già c'è e non pensassero. Ma se lei fosse ministro dell'istruzione, Del Rio, sì. Visto sì. Che è un tema che mi sembra la passione, vabbè, è un quando riaprirebbe le scuole? Subito. Riaprirei a turno a luglio già, riaprirei già a turno. Anche io. A turno, mandando i bambini a scuola una settimana delle prime, una settimana delle seconde. Guardi, davvero, questa mancanza della scuola vale tante, forse più della mancanza delle fabbriche e dei posti di lavoro, mi creda. Senza scuola non c'è futuro per questo paese. Grazie Graziano Del Rio, capogruppo alla Camera del Partito Democratico. Buona giornata Maria, ci sentiamo domani ovviamente. 8:20. Noi a scuola ci andiamo tutte le mattine. Regolarmente, sì. Grazie a tutta la squadra, o meglio alla Task Force. A domani.